Africa, cosa direbbe l'Asia e l'America? Ed un marchese le braccia nobili, anche per ridere, provar dovessero l'oscuri colpi d'un big il bastone, ammutirebbero, tramortirebbero, si stupirebbero, tramortirebbero, sì, non proverebbero di razione, non proverebbero si abbatta a me. Cosa direbbe la Spagna e la Francia? Cosa direbbe l'Olanda e l'Italia? L'Europa, l'Africa, l'Asia, l'America? Ammutirebbero, si guarderebbero, si stupirebbero, tramortirebbero, sì, non penserebbero sì nazione, non penserebbero sia fatta a me, generazione, sia fatta a me, generazione, sia fatta a me.